Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Una delle differenze o comunque delle diversità che trovo quando mi incontro con coetanei o con amici cinesi è il sentire più o meno le pressioni sociali a cui sono esercitati, e sono qualcosa che non riusciremo mai a capire, e io non mi sarei mai aspettata che fossero così grandi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima cartolina dalla Cina, cartolina che ci hanno inviato i nostri ascoltatori Emanuele e Michele, al lavoro in Estremo Oriente e autori della serie di interviste Vite in Costruzione. Oggi ci hanno presentato la storia di Beatrice, 28enne lecchese al lavoro a Ma'anshan. Dalla prossima settimana ripartiamo con nuove cartoline che un altro nostro ascoltatore ci ha inviato da altre regioni di questo nostro pianeta sempre più globale. Osserviamo anche come si è esploso negli ultimi anni il racconto, la ricerca di storie dei nostri giovani connazionali all'estero. Allora noi incoraggiamo tutti a farlo, diamo voce a un pezzo di futuro dell'Italia che ci piace pensare solo temporaneamente al di fuori dei nostri confini. Noi italiani abbiamo portato avanti, sia con i nostri investimenti sia con i nostri scienziati, abbiamo reso possibile la validazione scientifica di questa teoria, quindi io ritengo che questo premio Nobel moralmente appartenga un po' a tutti quelli che hanno fatto ricerca in questo campo. Come lo sono i nostri ricercatori al CERN di Ginevra, appena ricordati dal ministro della ricerca Carrozza. Complimenti, c'è anche tanta Italia nell'ultimo Nobel per la fisica. La frase della settimana è copyright del ministro per l'integrazione Chiang, si collega alle nostre riflessioni iniziali. Spero di vedere un'Italia con tanti giovani che non devono chiedersi qual è il loro paese, ma che sanno chiaramente di essere italiani, pur avendo una visione internazionale. Un paese in cui facilmente si parlino altre lingue, perché questo apre altri mercati e perché aiuta i giovani a fare altre esperienze, ad aprirsi. Così il ministro Chiang. Intanto però guardiamo in faccia la realtà. Secondo il rapporto sul capitale umano del World Economic Forum, l'Italia è 101esima su 122 paesi per capacità di attrarre talenti e 99esima per la capacità di trattenere i talenti. I paesi scandinavi, la Svizzera, la Germania, la Gran Bretagna e il Canada primeggiano in classifica. E allora, vista la situazione, non ci resta che fare i bagagli e trasferirci in Svezia. Il paradosso poi dell'emigrante italiano è che se ne va per contrasto alle cattive abitudini in Italia, ma poi all'estero le incarna e deve dimostrare di non averle. Boris Meggiorin, 34 anni, è un project leader specializzato in fondi europei per Tilt a Göteborg. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Il 7,9% degli italiani con un'educazione terziaria, oltre 400.000 tra laureati, titolari di diplomi universitari e dottori di ricerca, vivono all'estero, in altri paesi OCSE, lo rivela uno studio dell'organizzazione parigina. Tra questi cervelli in fuga, 173.000 sono donne. Il fenomeno è particolarmente marcato in Africa e Sud America. Nell'area europea i paesi più colpiti sono Albania, Romania e Irlanda. E negli ultimi 10 anni hanno lasciato il mezzogiorno, dirette al centro-nord oltre 1,3 milioni di persone, tra cui 172.000 laureati. 180.000 cittadini meridionali, di cui 20.000 laureati, sono invece emigrati all'estero. Lo denuncia il rapporto Svimez, secondo cui sono in continuo aumento i dottori che lasciano le regioni del sud. Altri segnali di fuga dall'Italia: 18.706 giovani negli scorsi mesi hanno fatto domanda per effettuare uno stage alla Commissione Europea. È un record storico a presentare il maggior numero di richieste ai neolaureati italiani, con oltre 4.000 domande, seguiti da portoghesi e spagnoli. Cartoline da un'Italia che emigra. Secondo il giornale di Vicenza, che cita dati comunali, ogni giorno un vicentino parte in media per l'estero. Dal capoluogo Veneto ne sono emigrati oltre 5.000 dal 2005. Da nord a sud, il quotidiano di Sicilia calcola invece in oltre 12.000 i siciliani emigrati nell'ultimo anno. Sono 1,5 milioni le offerte di lavoro pubblicate sul portale di lavoro comunitario Eures, secondo un'inchiesta del settimanale Panorama. Tra le più frequenti, sistemisti e programmatori, ingegneri meccanici, informatici e esperti di marketing. Per paese spicca la Germania con 4.300 offerte, seguita da Gran Bretagna e Norvegia. E ad essersi aggiudicato il bando promosso dalla Commissione Europea per il progetto Your First Eures Job c'è G-Group, che intende favorire almeno 500 inserimenti di giovani all'anno all'interno di PMI e multinazionali tedesche, inglesi, polacche, spagnole e romene. Alessandro Nodari, direttore marketing e comunicazione di G-Group. Il progetto è iniziato a marzo 2013 e terminerà a marzo 2014, quindi questo è lo spazio temporale. I paesi interessati sono tutti i paesi dell'Unione Europea e i ragazzi devono avere delle caratteristiche minime, quindi quindi devono avere un'età tra i 18 e i 30 anni ed essere residenti in uno dei paesi dell'Unione Europea. Che tipo di lavori vanno a fare? I lavori sono soprattutto lavori che hanno a che fare, per esempio, con personale per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata e ristorazione, ma sono anche richiesti tecnici, barra ingegneri e sono richiesti anche cuochi. Quindi un mix di lavori qualificati e non qualificati, potremmo dire. Un mix di lavori manuali e di altri tipi di lavori. Io li chiamerei tutti qualificati anche perché è un'opportunità più unica che rara di fare un'esperienza all'estero, tra l'altro godendo di alcuni, chiamiamoli, sussidi, aiuti finanziari che l'Unione Europea darà a questi ragazzi. Tipo di contratti e salari? Questo tipo di contratto non può durare meno di 6 mesi. Per quanto riguarda i salari, naturalmente non possiamo dare una cifra, nel senso che sono commisurati poi alla mansione che si andrà a svolgere. L'iniziativa è già in corso, qual è stata la reazione da parte dei giovani? Ad oggi sono più di 2000 i curriculum vitae che abbiamo ricevuto e quindi la risposta è molto buona. Non mi sorprende, anche perché se consideriamo i differenziali del tasso di disoccupazione giovanile, è chiaro che questo tipo di iniziative fanno prefigurare un mercato del lavoro europeo dove i giovani possono e devono spostarsi. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel cuore della Scandinavia. Centinaia di chilometri più a nord vivono e lavorano giovani professionisti che hanno saputo cogliere opportunità che nel bel paese appaiono una vera chimera, dando sfogo così a tutta la loro creatività e potenzialità. Nome: Boris. Cognome: Meggiorin. Età: 34. Città di origine: Campo d'Arsego, provincia di Padova. Studi: Master in elaborazione e gestione di progetti europei. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? A Barcellona, in Spagna. Perché? Perché non trovavo un lavoro affine ai miei studi. Quale lavoro svolge attualmente? Manager di progetti europei di cooperazione. Dove? A Göteborg, in Svezia. Tornerai? Non ne ho intenzione. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms. The winner takes it all, gli svedesi degli ABBA, per introdurre la tua storia. Boris, non ho alcuna intenzione di tornare in Italia. I miei genitori emigrarono in Quebec dal 65 al 72 e si pentirono sempre di essere tornati, quindi me ne guardo bene, a meno che. Boris, nella prima lettera che ha inviato mesi fa a giovanitalenti@radio24.it, ha lasciato forse volutamente qualche puntino di sospensione, accennando alle condizioni che poni al tuo paese per tornare. Allora, vogliamo riempire ora quei puntini? Ci sono diverse condizioni che vorrei che cambiassero, soprattutto sulla base della mia esperienza e quella dei miei genitori. Evidentemente, man mano che vivo all'estero vedo delle cose diverse da quelle che ci sono in Italia e comincio ad avere un'opinione. Tra poco le approfondiamo. Partiamo però dalla tua storia, che inizia col liceo scientifico e un'iscrizione alla laurea in istituzioni, economia e politiche dell'Unione Europea a Forlì. Perché questa scelta così mirata verso l'Europa? A 17 anni avevo in mente di studiare ingegneria, robotica, ma ero una schiappa in fisica, quindi ho pensato alla carriera diplomatica e sono terminato a Forlì. Ma rifaresti a posteriori la scelta di studiare in Italia o ti iscriveresti direttamente a un'università straniera? Sinceramente in Italia sono stato soddisfatto delle scelte. Il sistema italiano è stato probabilmente meno tecnico e più umanistico e quindi apre la mente per chi lo vuole. L'unica cosa è che c'è poco legame con il mondo professionale. E questo è un problema ricorrente. Nel 2006 ho lasciato l'Italia perché i posti di lavoro in linea con i miei studi avevano metodi di accesso poco trasparenti, denunci. Nel concreto, allora, ci spieghi cosa significa questo? Cosa significa dover chiedere una raccomandazione in Italia? In Italia è molto complicato se non si ha qualcuno alle spalle che possa fare da collante o comunque spingere. Quindi nel caso concreto un episodio che ha fatto scatenare la decisione è stato un colloquio dopo la laurea per un tirocinio non retribuito in un ente pubblico in Veneto, e l'accesso al tirocinio dipendeva da un master di 4.000 euro che dovevo comprare praticamente. Li paga e poi forse lavori, insomma. E a quale dequalificante iter lavorativo si deve sottoporre un giovane neolaureato senza gli agganci giusti in Italia, senza la famiglia giusta? Tu cosa hai fatto nello specifico? Io sono stato in balia delle agenzie di lavoro interinale, quindi ero totalmente ricattabile. Una volta ho fatto 5 colloqui per un posto come commerciale estero in un'azienda padovana, poi hanno soppresso il posto e quindi direttamente si è svelata zero pianificazione. E non mi sono perso d'animo, ho lavorato da McDonald's, ho lavorato come traduttore e poi tanto sano call center. Perché definisci la società italiana esclusiva anziché inclusiva? È una definizione illuminante, spiegaci. Perché Perché penso che molti italiani affermano se stessi escludendo gli altri, e così giustificano il loro ruolo professionale, difendono la loro posizione, mettono paletti entro cui è impossibile stare comodi. C'è un'età per finire l'università, nel curriculum non ci devono essere vuoti temporali, bisogna reprimere qualsiasi iniziativa e libero pensiero, praticamente il contrario dell'economia della conoscenza. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. A quel punto accettai l'invito di un'amica che stava preparando un dottorato a Barcellona, nell'azienda di servizio al cliente dove lavorava part-time, e cercavano personale italiano, e nell'appartamento che condivideva c'era pure una stanza libera. Boris, hai mai rimpianto quella scelta di fare le valigie e andartene? Finora no. E appena messo piede in territorio catalano frequenti un master in gestione dei progetti europei e ottieni anche un tirocinio alla Generalitat di Barcellona. Tirocinio, precisiamo, remunerato. Dopo 3 mesi ti hanno offerto di rimanere. Per occuparti di cosa esattamente? Il primo incarico è stato il supporto della Catalogna alla candidatura di Tolosa come capitale europea della cultura. Avevano una cooperazione in corso. E dopo l'assunzione mi hanno messo a scrivere progetti di cooperazione per bandi europei, formazione di enti locali per accedere ai fondi europei e poi gestione di progetti, certificazione delle spese. E come ci hai appena spiegato, dalla disoccupazione de facto in Italia a un impiego in un ente pubblico spagnolo il passo è stato breve. In maniera per me inaspettata mi hanno dato fiducia e responsabilità inimmaginabili in Italia per qualcuno di neppure 30 anni, rifletti. Allora, pur con tutte le sue difficoltà, hai trovato nella penisola iberica un ambiente più meritocratico, aperto e inclusivo? Effettivamente sì, è stato fantastico, cioè, l'idea che facessero ragionamento, se questo ragazzo ha studiato tutta la vita per fare questa professione, qual è migliore garanzia? Tanto vale dargli fiducia, quindi era una squadra di tutte persone sotto i 30 anni, partecipavamo concretamente alla pianificazione dell'unità e il capo sintetizzava le nostre idee e faceva in modo che circolassero. A Barcellona arrivi anche a insegnare all'università, il problema però è che l'arrivo della crisi in Spagna provoca la fine della tua esperienza di lavoro dopo ben 6 anni. Tu non ti rassegni, fondi una società e con questo trampolino di lancio approfitti del programma Erasmus per giovani imprenditori per trasferirti a Göteborg. Lo scambio avviene con Tilt, azienda made in Sweden, dove approdi neppure un anno fa. E vieni assunto. Di cosa ti occupi ora? Continuo a scrivere progetti per partecipare ai bandi dell'Unione Europea, li gestisco, certifico le spese e produciamo le conferenze e gli eventi relativi ai progetti. C'è un altro ragionamento illuminante che ci regali a un certo punto, scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Quando descrivi i freni maledetti che hanno affossato il nostro paese, le gerarchie, i mediocri, la fedeltà come valore infinitamente superiore ai risultati. Allora, vuoi spiegare a un paese troppo ottuso, spesso ignorante nel senso peggiore del termine, perché questi 3 disvalori hanno affossato, ripeto, affossato l'Italia? Penso, la mia opinione è che l'organigramma all'interno delle aziende, degli enti pubblici, abbia dei posti intermedi che sono gestiti da persone mediocri. Sono lì perché non hanno dato fastidio a nessuno, non certo per meriti gestionali o tecnici. E loro quello che fanno è dire di no, e quello concretizza l'esercizio del loro potere. Un atteggiamento premiare relazioni e non risultati, in pratica con questo ci siamo tafazzati, potremmo dire. Direi di sì. Il problema è che queste persone scollegano i vertici dell'azienda dalla realtà e provocano frustrazione nello staff, e quindi a livello aggregato è terribile, e poi le aziende vanno in malora. E penso che un po' tutti noi stiamo pensando a qualcuno in particolare. Una domanda a cui so tieni molto fornire una risposta. Domanda diritto: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia è un paese un po' vecchio, rimasto indietro, in cui si strumentalizza la religione per nascondere paure, e questo poi ha anche un effetto nel mondo lavorativo, nel senso che per esempio in Svezia c'è una marcia in più per formazione luterana, hanno sostituito il concetto di colpa con quello di responsabilità, quindi nei processi di decisione ognuno ha il diritto e il dovere di esprimersi a tempo debito e non lamentarsene dopo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Boris Meggiorin, 34 anni, project leader a Göteborg in Svezia, dove cura la gestione di progetti comunitari, laurea in istituzioni dell'Unione Europea alle spalle. Boris si scontra presto con un mercato del lavoro che tutto è tranne che meritocratico, raccomandazioni e canali di accesso poco trasparenti all'ordine del giorno. Lui decide così di cogliere l'opportunità che lo porta in Spagna, dove in poco tempo arriva a lavorare per il governo regionale catalano, ma la crisi che si abbatte sulla Spagna colpisce anche il suo lavoro. Attraverso uno scambio per giovani imprenditori approda così in Svezia, dove ottiene un nuovo posto. Dalla Svezia osserva un paese, l'Italia, affossata da gerarchie impossibili, mediocrità imperante e raccomandazione endemica. Ci raggiunge ora in linea Elena Ferrario, Project Officer per il progetto Interreg 4C a Lille, in Francia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Elena, ci sono due punti di contatto molto forti che legano la tua storia a quella di Boris. Il primo anagrafico, siete coetanei, entrambi classe 79, il secondo più legato all'occupazione. Anche tu lavori su progetti europei. Una domanda però per iniziare, quanto ritrovi nella tua storia e nel tuo vissuto personale ascoltando la storia di Boris? Ritrovo molte cose, soprattutto la frustrazione di non poter sviluppare una carriera professionale in Italia che ci desse soddisfazione da giovani laureati. Anche la ricerca di un posto di lavoro migliore è quello che ci ha spinto a andare fuori, migliore rispetto a quello che ci veniva offerto a casa, insomma qualcosa che sentissimo degno della fatica fatta per portare a casa una laurea. Laurea in scienze politiche a Padova nel 2003, questi i tuoi studi, 4 anni dopo ti sposti a Lille dove lavori al programma Interreg 4C, di cosa ti occupi esattamente, in cosa consiste il tuo lavoro ora? Il programma è un programma europeo di finanziamenti per enti pubblici, locali e regionali che appunto finanzia progetti di cooperazione sui temi dell'ambiente e dell'innovazione per il miglioramento delle politiche pubbliche gestite a livello subnazionale, diciamo. Io mi occupo della valutazione delle proposte di progetto, poi faccio il monitoraggio delle attività e dei risultati di ciascun progetto. A differenza di Boris, però, che in Italia non ha mai lavorato in questo settore, tu un'esperienza nel pubblico l'hai fatta al Comune di Venezia. Allora, a distanza di anni, quali differenze puoi elencare nel tipo di contratti di lavoro, ma soprattutto nelle modalità di lavoro tra Italia e Francia? Quale delle due esperienze si è rivelata più gratificante? In Italia ho imparato a lavorare, ho imparato molto soprattutto quando avevo un contratto da Cococò dove letteralmente lavoravo obbedendo al mio capo e dovevo soltanto ringraziare di avere un lavoro. Beh, insomma, non è esattamente un contesto motivante. No, decisamente. E all'estero? All'estero è tutto diverso, almeno qui in Francia per me, nonostante la situazione sia molto complicata, perché anche la Francia subisce comunque la crisi finanziaria che regna in Europa, ma esiste il rispetto del lavoratore, sì. Il rispetto della vita privata. Hai spiegato benissimo, in una parola, il rispetto. E quando vi chiedete perché vanno all'estero questi giovani, ascoltate le loro storie, le loro voci, perché si sanno spiegare benissimo. Elena, mi ha molto incuriosito un passaggio della lettera che ci hai scritto, quando racconti dell'associazione di italiani a Lille, che avete da poco fondato, e dei dibattiti che conducete, cercando di analizzare la situazione dell'Italia. Tu non vuoi cadere nella retorica, nelle solite lamentele, però siamo propositivi. Come cambiare l'Italia in pochi semplici passi? Allora, sono contenta che mi fai questa domanda perché così mi dai l'occasione di parlare di questa associazione fondata dagli italiani, ragazzi nuovi emigrati all'estero che amano il loro paese e che però non riescono a trovare una professione degna del loro percorso di studi. Noi abbiamo delle idee, te ne dico tre. La prima cosa è che partiamo dalla constatazione che in Italia regna l'individualismo e crediamo che sia essenziale combatterlo attraverso un nuovo programma di formazione, di educazione a livello delle scuole, in cui si insegni il rispetto della cosa pubblica, il senso della comunità. Brevemente le altre due, perché il tempo è poco? Le altre due sono un rinnovo dell'amministrazione pubblica completamente e poi la terza cosa è un cambiamento a livello elettorale e rappresentativo in cui i politici facciano politica come un servizio e non come un mestiere. Elena, qualcuno di questi giovani che stanno lì con te ha provato o prova a tornare in Italia? E se sì, con quali risultati? Ti dico solo questo. Mio padre, che vorrebbe sempre che tornassi, ogni tanto mi manda delle offerte di lavoro e recentemente mi hanno mandata una di questo stile. È un ente regionale che chiede una laurea di 5 anni, almeno 4 anni di esperienza lavorativa, la conoscenza di almeno 2 lingue straniere, il tutto per 1.200 euro al mese. E magari hanno già identificato la persona, come avviene a volte, è inutile candidarsi. Elena, sei stata chiarissima, grazie e un grande in bocca al lupo a tutti gli italiani a Lille. Domanda di rito per Boris Meggiorin: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le vie di uscita a un espatrio? Io gli suggerirei di leggere, prepararsi, non accontentarsi mai della prima risposta che riceve, e poi scoprire possibilità di scambi internazionali, borse, informarsi su chi è il migliore nel proprio settore, assistere alle conferenze, molte sono anche online. E poi essere paziente, non cedere ad astuzie, niente furbizie, mai cedere a ricatti, alle minacce, portare sempre le cose alla luce del sole quando si trova in difficoltà. Perché la strada furba non porta da nessuna parte, la soddisfazione della furbizia di solito si esaurisce esercitandola. Quindi le persone che sono furbe poi alla fine non vanno da nessuna parte. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un economista specializzato in sicurezza sul luogo di lavoro all'ILO di Ginevra, scadenza per CV 27 ottobre, info su irecruit.ilo.org. Un recruiter per Tableau Software a Londra con almeno 5 anni di esperienza nel settore risorse umane, scadenza per CV 19 ottobre, info su careers.tableausoftware.com. E infine un capo dell'unità bioinformatica al Center for Genomic Regulation di Barcellona, in Spagna, scadenza per CV 15 ottobre, info su pastor.crg.es. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi riprendiamo a parlare dei libri scritti dai nostri espatriati, un vero e proprio fiume di pubblicazioni che si va ingrossando sul tema della fuga dall'Italia, fiume che spesso sfocia in manuali pratici su come fare a. Tra gli ultimi, un'interessante guida per trasferirsi a Shanghai. A giovani talenti Michele Soranzo, autore di Shanghai, Mai dire mai. Possiamo dire che sono due categorie di persone che vengono per lavoro, quelle che hanno già un lavoro in Italia, non so, vengono trasferite qui o dall'estero, qui che io chiamo un po' quelli gli expat a orologeria, no? Hanno un contratto a scadenza, un anno, due anni, tre anni, finito quello rientro in Italia. E c'è la seconda categoria che invece sono gli avventurieri, diciamo, no? Quelli che non hanno niente o quasi da perdere nel loro paese e decidono di venire qui appunto per cercare un lavoro. A loro cosa consigli? Questo, dicevo, è la parte più complicata quando si arriva a Shanghai, se uno deve cercare lavoro. I consigli che ci sono da dare è più che altro cercare magari prima di muoversi qualcosa su internet, che ci può essere, anche se è difficile, che assumono a distanza. E una volta qui, ecco, di farsi la rete di conoscenze, che qui funziona tanto il famoso guanxi, no? Che sono le reti personali, le relazioni, che si possono trovare eventi che vengono fatti periodicamente, dove si incontra la domanda con l'offerta, quindi muoversi parecchio qua a Shanghai, ecco. Shanghai è ancora un polo di attrazione per giovani italiani alla ricerca di opportunità e in fuga, anche se vogliamo, da un paese che opportunità non sembra darne più tante? Sì, le offre ancora, anche se ultimamente sta cambiando, ecco, come apertura, come ospitalità per chi viene qui in cerca di lavoro. La Cina cerca di tutelare i posti chiave per i propri cittadini e quindi chi viene qui fa sempre un po' più fatica a trovare lavoro, ecco, a meno, diciamo, la politica del paese è quella di preferire, non so, chi viene qui a fare un lavoro già molto specifico. Qual è il tuo personale consiglio a chi progetta un trasferimento a Shanghai? Per il lavoro, come ho detto prima, ecco, già muoversi online prima, crearsi dei contatti, eccetera. Poi il consiglio che posso dare è quello di non aspettarsi né cose straordinarie, ma neanche di far tragedie. Ecco, diciamo, quelli che mi contattano di solito sono tra due sponde, no? Chi è entusiasta, che poi magari rimane deluso anche, oppure chi è spaventato, va sul tragico, che poi scopre che qui alla fine tanto tragico non è. Qual è il pregiudizio più forte che occorre superare per potersi trasferire a Shanghai? Pregiudizio, forse, non so, un po' i luoghi comuni che si hanno sui cinesi, ecco, non stando in Italia, potrebbe essere il pregiudizio che qui magari tutti vanno in bicicletta, che qui magari è difficile muoversi, che è difficile comunicare. E per maggiori informazioni, Shanghai, Mai dire mai di Michele Soranzo, Fazzi Editore. Un motivo per restare o tornare. Uno sconto dell'80% sulle tasse di immatricolazione universitarie per i ragazzi che hanno un genitore cassa integrato in mobilità o disoccupato è la misura anticrisi dell'Università Politecnica delle Marche. All'Ateneo Ca' Foscari di Venezia invece è stato introdotto un prestito d'onore per pagare le tasse universitarie. Infine, l'Università Bocconi a Milano lancia l'iniziativa Una Scelta Possibile, obiettivo rendere gratuita l'istruzione per i giovani delle periferie che si trovano in condizioni economiche disagiate. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è espatriare ma dove? Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre è: Europa, America o Asia? Quali sono le nuove mete di espatrio? Dove state orientando le vostre scelte di emigrazione? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.